Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Imprese della chimica e derivati che investono ed esportano idee anticrisi. Di Anna Marino. Nuova puntata della serie speciale di Voci di Impresa in collaborazione con Sharing Italy, l'iniziativa di Intesa San Paolo che ha riunito a Torino 150 imprese sui temi dello sviluppo economico e imprenditoriale. Oggi vi presentiamo due storie di impresa che arrivano da distretti manifatturieri specializzati nella chimica e derivati in due zone della Lombardia, Cremona e Bergamo, e hanno in comune anche la forte attenzione all'innovazione, all'export e puntano a fare rete con il territorio anche grazie al welfare. Fattori strategici che hanno fatto superare la crisi alle PMI e hanno trainato la ripresa, secondo Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Le aziende che queste cose le hanno fatte nel momento topico della crisi, quindi quando poteva essere veramente difficile immaginare il futuro, oggi sono aziende che sono posizionate benissimo. Esempi di aziende che nell'ambito proprio del 2008, quando c'è stato il primo momento importante della crisi, hanno perso 30, 40, 50% di fatturato, che sono numeri che portano le aziende a immaginarsi, non nel futuro, ma immaginarsi verso una situazione di risoluzione, facendo investimenti, internazionalizzando, cioè accelerando su percorsi che avevano già magari intrapreso. Oggi le trovi con fatturati che sono triplicati, con organici che sono raddoppiati, cioè è la dimostrazione che investire e immaginare il futuro quando ancora è difficile poterlo toccare è estremamente importante. La prima case history è quella di Profos Chemicals, azienda chimica italiana produttrice di polvere antincendio per tutte le classi di fuoco. Produce anche fertilizzanti microgranulati per mercati specifici come i garden e i campi da golf. È nata nel Cremonese nel 2008 in piena crisi internazionale, come racconta il suo fondatore e responsabile commerciale William Grandi. Profos perché la materia prima che noi utilizziamo per i nostri prodotti è il fosforo, fosfato monammonico. Allora da lì è nato Profos, che sarebbe per il fosforo. È la base di tutti i nostri progetti che abbiamo iniziato a fare in questi anni. Noi siamo un'azienda che fattura 5.200.000 euro di fatturato, siamo in 17 persone. Il momento iniziale è stato in piena crisi, 2008, perché ho ritirato un'azienda insieme alla mia famiglia, con cui collaboravo, in cui ero amministratore di questa azienda qua, l'abbiamo ritirata dal proprietario e siamo partiti con la nostra avventura proprio in piena crisi di mercato. Diciamo così, la data precisa dell'evoluzione è stata il 2011, dobbiamo costruire il nuovo stabilimento con le nuove tecnologie, però la forza è stata che conoscevamo il mercato, conoscevamo il prodotto e le metodologie per produrre quello che noi facciamo, perché noi produciamo polvere per gli estintori, poi nel seguito degli anni abbiamo iniziato a produrre fertilizzanti e anche ignifuganti per il pannello trucciolare. L'innovazione per Profos Chemicals è il fattore chiave per essere PMI innovativa in Italia e in Europa. L'azienda di San Giovanni si è aggiudicata i fondi dell'ultimo bando del maxi programma europeo di ricerca Horizon 2020. Ha infatti proposto una soluzione innovativa per il recupero di fosfati dalle polveri usate degli estintori. L'innovazione per noi è stata un punto cardine. Ma l'innovazione intesa non solo un'innovazione di prodotto, ma anche un'innovazione di processo. Nel 2014 siamo diventati la prima PMI innovativa della provincia di Cremona, dato che l'azienda è stanziata a Cremona. Dopodiché, 2 anni prima avevamo iniziato un progetto per recuperare le polveri degli estintori, e quindi le polveri estintori sono costituiti da fosfato monammonico, che è una materia prima esauribile come l'acqua. Abbiamo studiato in tutto internamente con i miei chimici il progetto. Il progetto aveva un valore di investimento molto importante e da lì abbiamo cercato quello che era la possibilità di finanziamento al di fuori di quelli che erano i canoni comuni per essere finanziati da un'impresa. Quindi abbiamo partecipato a un bando europeo che è l'Horizon 2020, abbiamo vinto nel 2014 un bando Horizon. Con i nostri progetti abbiamo avuto un finanziamento da parte della comunità europea per finanziare il progetto del recupero dei polveri, che va dal piano della ricerca fino allo sviluppo dell'impianto, l'installazione dell'impianto e la divulgazione del nostro progetto di circa 2 milioni di euro fondo perduto, quindi credo che sia una delle migliori fonti di finanziamento che un'azienda può avere. Il dato concreto è che tutto il progetto è stato studiato internamente dai miei collaboratori e da me e dai miei collaboratori, quindi credo che la forza delle aziende sia stata far crescere le proprie risorse umane. Internazionalizzazione ed export sono l'obiettivo su cui oggi punta Profos. Il nostro fatturato è a oggi è orientato al 45% facendo export. Noi facciamo sia un modello di business che è diretto ai clienti, quindi un B2B, ma anche un conto lavorazione per grossi. Attualmente la sfida più grossa è quella di internalizzare l'azienda. Lo stiamo facendo cercando delle risorse all'estero, tanto è vero che abbiamo aperto oggi delle collaborazioni con degli uffici esteri per il personale, dove abbiamo dei commerciali o degli agenti. Io li chiamo i captori di novità. Secondo William Grandi, i numeri e la produttività dell'azienda si spiegano con la forte attenzione alle risorse umane e al loro welfare, attraverso incentivi e organizzazione aziendale pianificata in favore dei dipendenti. Io credo che la spina sia stata data dall'interno per quanto riguarda le risorse umane e i collaboratori che avevo, anche perché è un'azienda sì di proprietà di una famiglia, ma è gestita prettamente manageriale. Abbiamo sempre coinvolto tutti i nostri collaboratori per fare le scelte che abbiamo fatto, e noi da tempo ci freggiamo del bollino etico sociale, dove abbiamo un ente certificante esterno che viene a verificare effettivamente tutto quello che sono le procedure che noi utilizziamo con i nostri dipendenti per dare qualità al lavoro dei nostri collaboratori, ma soprattutto sostenerli nei momenti, anche quando c'è stata la crisi, sia sotto l'aspetto della retribuzione. Quindi abbiamo spostato, per dire un esempio, da 2 turni di lavoro abbiamo spostato la produzione su 3 turni di lavoro, perché così i dipendenti potevano avere un incentivo ovviamente nello stipendio maggiore, ma poi abbiamo fatto anche una crescita ad obiettivi. A seconda degli obiettivi ovviamente i dipendenti e i collaboratori possono avere delle soddisfazioni. La seconda storia è quella di Arcoplex Trading S.p.A. Si occupa di distribuzione, compoundazione e produzione di materie plastiche, soprattutto polimeri per lo stampaggio a iniezione. Nata nel 1958, dal 1970 si è trasferita da Seregno, a nord di Milano, nel suo attuale quartier generale di Pontirolo Nuovo, nel Bergamasco. Ad affiancare l'amministratore delegato Giacomo Scanzi ci sono già da qualche tempo i 2 figli, Giulia e Carlo, responsabile commerciale, che ci racconta la storia dell'azienda di famiglia. Arcoplex nasce nel 1958 per un'idea, direi a quei tempi, lungimirante di una persona molto cara a mio padre, il dottor Brenna, che decise in quegli anni di investire nelle materie plastiche. Anni dove non erano ancora diffuse quanto lo sono oggi e dove in pochi credevano su quale potenzialità potessero nascondere. Il nostro business anche attualmente si concentra nel nord centro Italia e una parte di sviluppo anche nel sud, ma in quegli anni sicuramente il movimento, il fermento era vicino a noi, alla nostra portata, e quindi noi eravamo ben localizzati. Noi siamo un gruppo da qualche anno a questa parte, siamo 5 società all'interno, abbiamo un fatturato di circa 100 milioni di euro, interamente o quasi interamente sviluppato nel territorio italiano. La parte prevalente riguarda la distribuzione, poi con le società del gruppo Arcoplex facciamo anche produzione di materie plastiche. Durante la crisi e non solo, Arcoplex ha puntato su diversificazione e innovazione, ma anche su investimenti in ricerca e sviluppo. La nostra fortuna e la nostra forza. La nostra fortuna è stata il poter contare su un portafoglio prodotti molto ampio, in modo tale che avendolo si potesse essere inseriti in tanti diversi settori applicativi, in modo tale da diversificare. La nostra forza è stata quella di credere al giorno dopo e al giorno dopo ancora, attraverso la nostra struttura di persone, che sono il nostro valore più importante, e dando, anziché del puro commercio al mercato, dando tanta consulenza. Quindi con degli investimenti nel nostro reparto di ricerca e sviluppo, cercando di offrire alla clientela, oltre che al prodotto e a un prezzo, ma prima ancora offrire soluzioni che rendessero i nostri clienti più competitivi o più all'avanguardia rispetto ai loro concorrenti. Carlo Scanzi, seconda generazione della famiglia, spiega quali strumenti esistono in Arcoplex per il welfare e la staffetta tra padri e figli. Sul welfare abbiamo già puntato nel 2000 2007, con l'inaugurazione dei nuovi uffici a Pontirolo Nuovo, abbiamo deciso di ringraziare, queste sono le testuali parole di mio papà, le persone che hanno collaborato con noi per tanti anni e che oggi ancora ci collaborano, del valore che hanno portato in azienda, offrendo loro un'ospitalità diversa. Oggi abbiamo un'azienda con degli spazi comuni, quindi con una cucina, con una palestra, con una piscina, con uno spazio aperto sempre a disposizione dei nostri collaboratori e delle loro famiglie e dei loro amici. Per il domani puntiamo al ricambio generazionale, quindi oggi abbiamo lanciato il nostro progetto Academy, proprio un progetto di formazione per neolaureati o neodiplomati, che verranno poi, dopo un periodo di tempo di formazione sia inerente alle materie plastiche, ma non solo, anche all'economia, ai temi economici e alle lingue, verranno inseriti in azienda. Queste ed altre storie di piccole e medie imprese sono l'esempio replicabile di come concretamente possono crescere i territori industriali, facendo rete, internazionalizzando, puntando su innovazione e sul welfare. Basta raccontarle, secondo Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Io ritengo che il poter ascoltare storie vere, e quindi non il racconto di fatto trasmesso per interposta persona, di chi ha sperimentato quello che stiamo dicendo, ha un grandissimo valore. E questo vale in generale, vale quando si parla di imprese che devono raccontare la loro storia, di che cosa ha significato per loro internazionalizzare, dal momento stesso di quando ti tremano i polsi, perché andare all'estero non è andare a fare un viaggio. E quindi secondo me ha un grande valore, perché racconta l'esperienza concreta di qualcuno che è come a te, in un settore diverso, magari con una storia diversa, ma che come a te può fare un percorso futuro, però raccontandoti naturalmente quello che ha passato nel farlo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.